La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi, anzi quasi 31, qui in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Saluto tutti e ringrazio per gli ascolti, per chi ci scarica in podcast. Naturalmente l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proposte di trasmissioni. Allora, in parecchi da ieri, a dire la verità, avete scritto di qui la trasmissione di oggi, a difesa del fatto che Landini, il segretario della FIOM, non nasconda in maniera progressivamente sempre più chiara la sua intenzione che serva direttamente da parte propria, in termini personali, da parte della FIOM, da parte della CGIL, dare una mano a chi in politica da sinistra obietta a Renzi. La minoranza del PD, chi sta più a sinistra del PD, eccetera eccetera, e un bel po' di voi hanno detto: ma in definitiva lo scandalo in che cosa consiste? Cos'è una novità che i sindacalisti in Italia fanno politica? Ecco, allora abbiamo deciso oggi, con un ospite che vi presento immediatamente, di riflettere esattamente su questo tema. Certo, il ragionamento è innanzitutto su Landini, che è a oggi probabilmente il più pugnace ed efficace per certi versi nella comunicazione pubblica antagonista di Renzi, nel senso che sono andato a controllare, Landini è quello che ha un minutaggio e presenze televisive nei talk di gran lunga superiori a quelli degli altri, delle grandi confederazioni sindacali, e ogni volta non si tira indietro nel mettere in fila quelle che considera delle vere e proprie rese incondizionate dal punto di vista della sinistra operate dal governo Renzi e da Matteo Renzi in prima persona. È discutibile se questo poi significhi anche altrettanto successo, oltre che quello della comunicazione pubblica, anche dal punto di vista sindacale. Sapete o avete sicuramente letto dei recenti buchi presi in termini di scioperi proclamati dalla FIOM come aderenti. È avvenuto a Pomigliano contro lo sciopero proclamato contro i sabati di straordinario per produrre le panda aggiuntive, e la motivazione era: ci sono 2000 persone in cassa integrazione, facciamole fare a loro invece che chiedere gli straordinari a noi. Ma anche a Menfi lo sciopero, non così clamorosamente, ma ha avuto l'ultimo sciopero della FIOM pochissimi aderenti. Tuttavia, su questo punto, che cosa può aggiungere Landini a una sinistra antirenziana? E più ampiamente, sullo sfondo, ha torto o ha ragione Landini in questa frase che vi leggerò, e che è un po' la spiegazione del perché, come molti di voi hanno scritto, in definitiva è vero che la storia politica italiana è stata piena di sindacalisti impegnati direttamente nei partiti e in Parlamento. Che cosa dice oggi Landini a Repubblica, che lo intervista? Su questo è il titolo dell'intervista che trovate a pagina 14: è: io in politica deciderà la CGIL nel 2018, di certo serve una coalizione sociale. Sapete che ieri è dovuto andare a un chiarimento chiestogli dalla segretaria della CGIL, cioè la Camusso, e Landini ha detto: no, io non ho detto che sono in politica subito, io dico semplicemente che credo che sia necessario farlo, di qui il ribadire una coalizione sociale, e però io, fino a che sono segretario della FIOM, resto a fare segretario della FIOM, ma facendo politica. E ha una domanda esplicita di Repubblica che dice: ma insomma, il suo è un programma politico? Landini risponde testualmente così: il sindacato italiano ha sempre fatto politica, ha sempre espresso una sua visione, non è mai stato un sindacato di mestiere, cioè che si occupa di fare solo i contratti aziendali e soprattutto nazionali di categoria. Sapete che per la CGIL e per la FIOM contano soprattutto i contratti nazionali e non la contrattazione aggiuntiva, per così dire. Però in definitiva Landini, nel dire questa cosa, dice una cosa vera o no? La storia italiana secondo me gli dà ragione. Poi tutt'altro paio di maniche, vedere se è un bene o è un male. Ricordo a tutti, per esempio, che nella storia metalmeccanica in Germania c'è un solo grande sindacato, la IG Metall, mentre noi abbiamo naturalmente la FIOM per la CGL, i metalmeccanici della CISL, quelli della UIL, poi quelli dell'UGL e così via. Sapete che la triplice in realtà ha una storia nel secondo dopoguerra italiano che è una storia del tutto parallela agli sviluppi politici, cioè c'era un collateralismo con i partiti e i filoni di pensiero politico diretto. Di qui il fatto che noi abbiamo avuto un mucchio di segretari dei diversi sindacati eletti in Parlamento, impegnati in politica, cofferati della recente vicenda ligure che ha sbattuto la porta al PD, veniva dalla CGIL, Epifani che ha fatto da trasbordatore per Renzi, dopo, veniva a sua volta dalla CGIL, Marini del PD veniva dalla CISL, Santini, parlamentare in questa legislatura, eletto in Veneto per il PD, veniva dalla CISL, e così via. Giorgio Benvenuto, impegnatosi in politica dopo essere stato a lungo segretario della UIL. E se ci fermiamo alla sinistra e al PC, al grande partitone rosso, beh, insomma, nella storia del PC faccio solo un nome: Di Vittorio e il grande patto per il lavoro. È come se i leader della CGIL pesavano e contavano all'interno dell'agenda politica, non certo sui contratti, ma sulle priorità delle politiche dei governi. Allora, questo è lo sfondo per chiedervi opinioni e sapere come la pensate voi. Chiamate l'800 24 00 24, ma soprattutto per sapere come la pensa il nostro ospite. È qui con noi oggi pomeriggio, sono molto lieto che sia tornato alla mia trasmissione, Giampaolo Panza. Giampaolo Panza, grandissimo giornalista, maestro veramente di giornalismo italiano, scrittore, saggista, oggi scrive come editorialista sul Libero, e in libreria da pochi giorni c'è il suo ultimo libro, La destra siamo noi. Grazie di essere con noi, Giampaolo Panza. Grazie per l'invito a voi. Allora, tu come la pensi, Giampaolo, sulle parole di Landini e Landini che vuole andare in politica? Allora, io prima di dire come la penso, vorrei suggerire come osservare Landini. Osservarlo un po' da lontano, dal momento in cui è nato. Allora, non so se gli ascoltatori della tua trasmissione lo sappiano, Landini è un signore del 1961 e quindi ha 54 anni. 54 anni in politica è ancora un'età quasi da recluta, perché siamo abituati a vedere signori ben più anziani. Non sto parlando naturalmente dell'ultimo Presidente della Repubblica, prima di Mattarella, ma soprattutto lui è nato in una, perché a volte contano anche i posti in cui si nasce, lui è nato in un paese dell'Appennino di Reggio Emilia, Castelnuovo nei Monti, e ha assorbito anche l'aspetto fisico di quei montanari. Io ne ho conosciuti tanti quando facevo le ricerche per un mio libro di ormai 12 anni fa, Il sangue dei vinti. Erano dei signori che potevano sembrare, non dico il padre dei Landini, ma gli zii di Landini. Avevano i tratti spessi del volto, avevano il naso robusto, avevano le guancione, avevano la struttura corporea. Chi vede Landini in TV lo riconosce subito. Ma soprattutto c'è, come dire, il corso della sua vita. Lui studiava, quando ho avuto 14 anni, siccome in famiglia c'erano 5 ragazzi da crescere, e ha dovuto interrompere gli studi e si è messo a lavorare a 15 anni. Chi è oggi nella politica italiana che può dire ho cominciato a lavorare quando ero appena adolescente? Ha cominciato a lavorare e dove? In una cooperativa in cui lui faceva il saldatore. Ecco un altro dato geografico, che era di Cavriago. Cavriago è un paese importante, un comune importante della provincia di Reggio, ma è noto soprattutto per essere, credo, l'unico centro d'Italia che conserva ancora un busto di Lenin. Allora, Landini è cresciuto nella FIOM, che allora aveva dei segretari. Quindi insomma, per così dire, dal punto di vista della sinistra, lui è giovane ancora col metro politico di età, però è espressione di una storia antica e profonda nella storia del comunismo italiano. Vabbè, ma ciascuno di noi viene da situazioni profonde, anche tu Oscar e io Giampaolo Panza. Allora, il vero problema è che Landini è diventato, anche qui una data da ricordare, il segretario della FIOM il 1 giugno del 2010, quindi non è uno che sta dove sta lì per da 15 anni. Tra l'altro è stato eletto dal comitato centrale della FIOM con una votazione bulgara, si sarebbe detto una volta, cioè 124 voti a favore, un solo voto contrario e 40-41 astenuti tra schede bianche e astenuti. Quindi oggi Landini, io ho l'impressione, qui c'è già una mia prima risposta al tuo quesito, Sandra. Oggi Landini è come un signore che viva dentro un abito un po' stretto. Una volta c'erano questi, soprattutto dei ragazzi, che crescevano, ma le famiglie non avevano i quattrini per fargli un abito nuovo e quindi si trovavano un po' impacciati perché avevano la giacca stretta, i pantaloni che tiravano, che si lasciavano scoperte le caviglie. Ed è un signore che, rispetto a tanti politici che navigano a vista sperando soltanto di non perdere il loro posto a Montecitorio, e lui è un signore molto netto, molto deciso. Suggerisco ai tuoi ascoltatori, penso che nessuno se lo ricordi, ma io sì. Allora, Landini ha pubblicato per la Bompiani nel 2011 un libro intervista. Il titolo è Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo. L'ha scritto un giornalista, si chiama Giancarlo Feliziani, molto bravo, molto attento. È un testo importante per capire cos'è Landini, ma per capirlo bene basta confrontare due giudizi su un personaggio importante dell'industria automobilistica, no, ormai non più solo italiana, cioè Sergio Marchionne. Da una parte abbiamo Renzi, il presidente del Consiglio, che parlando come un ragazzino davanti al gol della propria partita, dice di Marchionne: sono gasatissimo dei suoi programmi. E invece in questo libro intervista Landini è molto severo con Marchionne, di fatto gli riconosce una sola qualità, che però dice anche qualcosa anche del personaggio Landini. La sua qualità è di dire con chiarezza che cosa pensa e l'abitudine a rischiare per le cose che pensano. Quindi da questo punto di vista è quasi fatale che Landini prima o poi lasci prevalere nella sua vita, nella sua figura, l'aspetto più politico che sindacale. D'altra parte tu l'hai appena detto, i grandi segretari del sindacato, in questo caso della CGIL, beh, uno è stato Giuseppe Di Vittorio, ma io aggiungerei anche Luciano Lama. Lama l'ho conosciuto bene, l'ho descritto molte volte, l'ho seguito. Posso citare soprattutto una cosa, la sua battaglia contro il terrorismo rosso. Anche quando andò all'Università di Roma nel 77 per fare un comizio e venne di fatto obbligato a scappare da un assalto di quelli duri, degli antagonisti, allora si chiamavano così, e anche quello era un gesto politico. Quindi da questo punto di vista io non ci vedo nessuna differenza e credo che Landini, poi è difficile immaginare che cosa può accadere dopo le decisioni di un leader come lui. Lui ricorda sempre che la FIOM ha 350.000 iscritti, e l'ha detto anche in TV qualche sera fa, che sono ben più numerosi dei presunti iscritti del Partito Democratico. E questa base, io non credo che lo potrebbe seguire tutto se Landini facesse il salto della barricata e passasse alla politica pura e semplice, però certamente uno che è abituato a un lavoro di squadra, pur sapendo che tutti i sindacati, così come tutti i partiti, hanno bisogno di un leader. Quindi da questo punto di vista, con tutto il rispetto per la signora Susanna Camusso, la signora mi sembra, la segretaria della CGIL, mi sembra una leader un po', come dire, appassita, usiamo per cortesia verso una signora soltanto questo aggettivo, un po' appassita, prima o poi dovrà lasciare quell'incarico. Non credo che l'incarico passerà a Landini, ma Landini dipende dalle sorti dell'Italia, dipende da che cosa accadrà nel governo Renzi, quali se riusciremo a superare il dramma della crisi sociale ed economica di oggi, e soprattutto che cosa accadrà sul piano del terrorismo internazionale, perché noi siamo sempre abituati a non collegare mai quello che avviene in questo frangente molto pericoloso, ma il governo Renzi potrebbe cadere anche per un attentato catastrofico che viene portato, non so poi da quale organizzazione, non so se l'ISIS o qualche altro gruppo terroristico, per cui gli scenari devono essere lasciati aperti, e tu Giannino per primo, che sei un osservatore così attento della nostra realtà politica e sociale ed economica, anche tu preparati all'arrivo di qualunque novità. Ah, sì. Allora, però la domanda che io faccio a Gian Paolo Pansa è questa: in passato non sono mancati da parte dei leader del sindacatone rosso ai leader del partito nerosso scontri anche accesi, cioè D'Alema persa in congresso contro il segretario della CGIL, all'epoca era appunto la riforma delle pensioni, tanto per cambiare, e perse brutalmente, devo dire la verità, però c'era sempre un rito, per così dire, cioè anche quando il confronto è stato diretto, acceso e senza risparmiare colpi, l'unità alla fine, sia pur nella durezza dello scontro, prevaleva. Ora la novità è che il leader della FIOM, Landini, esplicitamente, radicalmente pone un'alternativa, cioè dice: Renzi in realtà è l'abdicazione di alcuni fondamenti della sinistra, e quindi bisogna costruire una piattaforma sociale, eccetera, che sia altra cosa, perché il Partito della Nazione è snaturante rispetto a quello che noi, nella concezione di Landini e di chi obietta da Renzi a sinistra, rappresentiamo, e dobbiamo batterci per continuare a rappresentare questa idea. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16.49 dai microfoni di Radio 24. Abbiamo con noi Gian Paolo Pansa, ci stiamo interrogando sulle possibilità, ma il significato anche della evidente, insomma, propensione e intenzione di Landini, presto o tardi del segretario della FIOM, di lanciarsi in politica a sinistra contro Renzi. E potrebbe essere una versione italiana, non so se con altrettanto successo, della rottamazione dell'idea tradizionale dei grandi partiti socialisti che in effetti Podemos sta facendo in Spagna e che Syriza ha fatto in Grecia nei confronti del PASOK, secondo te Giampaolo? Ma guarda, io ormai davanti a questo mondo che cambia, di non dico di ora in ora, ma di giorno in giorno, mi tengo lontano dalle profezie e dalle previsioni, perché può accadere. Io però penso che Landini sia un uomo intelligente, e non credo che voglia ripetere l'esperienza dei partitini di sinistra, a cominciare da Rifondazione Comunista per venire a quelli di oggi. Condivido, sì. E non voglia neppure ripetere le esperienze greche o spagnole, perché la verità è che per vincere la partita contro Renzi bisogna avere, dico una banalità suprema, ma è la verità, i voti di Renzi, e i voti che stanno facendo vincere Renzi sono dei voti della piccola e media borghesia, che magari ha lasciato la parrocchia di Berlusconi per andare verso quello che viene chiamato il suo baby royal, cioè il suo figlioccio naturale, e per cui il giorno che Landini scenderà o si occuperà in modo continuativo di politica, e penso che questo prima o poi accadrà, avrà molte difficoltà, perché la sua storia va tutta da un'altra parte. Lui è stato allevato dalla FIOM di Bologna, che aveva come segretario un signore che veniva chiamato il sandinista, tanto era estremista, una persona per bene, intendiamoci, che poi è morto, veniva chiamato anche il bruciato, perché in un incendio di una sezione della FIOM era rimasto toccato sul viso. Però cose, le persone cambiano. La vita è bella perché ci presenta ogni giorno delle novità. Io vorrei avere tanti anni di meno di quelli che ho per godermi giorno per giorno quest'Italia che cambia, che spesso mi incute paura, però mi spinge anche alla curiosità. E quindi da questo punto di vista Landini è un personaggio che mi incuriosisce. Gli suggerirei di essere meno stentoreo nel comunicare. Mi viene in mente la caricatura che di lui fa Crozza sulla 7, sì. Landini che grida, così come c'è la caricatura di Salvini che grida sui tombini di Ghisa. Insomma, gli suggerirei di essere un po' più pacato, però è molto, molto presuntuoso da parte di un giornalista solitario che poi, certo, grazie a Dio riesco a pubblicare i miei articoli su Libero, però che non vive più all'interno di una relazione, quindi ha la possibilità di scambiare opinioni, di rendersi conto se le sue sono valide o meno. Ma lo fai avere, ecco, se dovessi indicare a qualche scommettitore il personaggio da tenere sotto vista, da considerare. Lui è sicuramente nella lista. Insomma. Ma certo, ma lui in questo momento, insieme a due o altri tre personaggi, a cominciare da Salvini, anche se sono agli antipodi. Sì, direi molto antipodici. Sono esattamente quelli che hanno delle chance rispetto a Renzi. Sentiamo rapidamente i nostri ascoltatori. Francesco da Massa Carrara. Francesco, prego. Salve, saluto Panza e lei soprattutto per questa occasione che mi date per poter riprendere un po' la provocazione sul tratteggio lombrosiano che è stato fatto del personaggio Landini. Io credo che questo elemento che metteva in evidenza Panza potrebbe essere, come dire, sviluppato in un contesto riguardante l'etimologia della parola lavoro, cioè di come è cambiata la parola lavoro e i suoi contenuti, cioè quello che ci mettiamo dentro sostanzialmente. E secondo il mio punto di vista, da quello che avete detto fino adesso, è molto interessante vedere come il vecchio mondo, cioè quello di Landini che ha cominciato a lavorare a 15 anni, che è stato un lavoratore che ha poi preso la strada del sindacalista per arrivare poi a fare il politico, a confrontarsi con un uomo come Renzi che invece viene da tutt'altra cultura e da tutt'altra, no, diciamo, soprattutto lavoro vero. Beh, cioè, non è che Renzi abbia lavorato, no, cioè l'azienda di famiglia che distribuiva giornali, però lui insomma ha iniziato facendo politica, come devo dire, è un politico di professione dal mio punto di vista, Renzi, e lo dico senza mancare di rispetto, è un fatto. Vede Francesco, io ho una sintesi che giro a Panza, perché come tutte le sintesi è molto approssimativa nel descrivere una realtà complessa, le diceva il lavoro, e noi viviamo da un paio di decenni, tre decenni, in una fase di grande la globalizzazione che molti non amano. Che cos'è la globalizzazione in realtà? È un mondo nel quale i capitali sono liberi innanzitutto. Allora, in questo mondo con i capitali liberi il lavoro è rimasto vincolato. Ci sono due risposte alle asimmetrie, ed è per questo quello che dice anche Piketty, che poi il reddito del lavoro cade rispetto al rendimento del capitale. Però ci sono due risposte antipodiche. La mia è che in un mondo così, perché ci sia meno asimmetria, bisogna, come è libero il capitale, rendere più libero dai suoi vincoli il lavoro. E noi non lo abbiamo reso libero, né in Italia né in Europa, nessuno in realtà può prestare il suo lavoro qui e là, perché per ogni lavoro ci sono specifiche nazionali. La risposta di Landini è opposta alla mia, cioè dice al contrario, caro Giannino, bisogna mettere vincoli ai capitali e bisogna difendere un lavoro rigidamente vincolato, perché questo è l'unico modo attraverso cui i sindacati e la sinistra possono rispondere altrimenti alla forza prevalente del grande capitale, dell'imprenditore e così via. Sono due soluzioni opposte. Questa sintesi è troppo approssimativa, Giampaolo? Ma sai, tutte le sintesi sono un po' approssimative, specialmente quando si naviga a vista in un mare in tempesta, uno si affida alle cose che vede, quindi questo simpatico tuo ascoltatore ha detto la descrizione lombrosiana che ha fatto Panza di Landini, ma tanto per cominciare non sono lombroso, certo. Però sono uno studioso che dalle caratteristiche del volto, della figura e della nuca di un signore qualunque capiva se era un vero delinquente o meno. Io sono partito, come tutti i giornalisti della mia generazione, da un detto del giornalismo americano, nel senso degli Stati Uniti: nessun problema senza una storia, nessuna storia senza un personaggio. E il personaggio va descritto anche fisicamente. Sì. Comunque, Landini sarà, ci sorprenderà tutti, io penso. Poi le sue sorprese possono piacerci o meno. No, non piacerci, no, ma fanno parte dell'inevitabile. Non crediate voi in ascolto che con Renzi la politica italiana è finita. Questa è la mia sintesi personale. Nel frattempo do appuntamento a Giampaolo per un'occasione in cui invece parleremo del suo libro tra poco e presto. Grazie Giampaolo Pansa, voi continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.